Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free, puntata numero 417, nella quale parleremo di cavalli senza stilisti, cammelli siliconati e cloni scimmieschi. Speriamo di avervi incuriositi. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Giuseppe Coco, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Zenone Sovilla, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnucci. Vanno d'inverno le anatre di Central Park, si chiedeva il protagonista del romanzo di Salinger, il giovane Holden. Allo stesso modo noi potremmo chiederci che fine fanno i cavalli quando non sono più in grado di portare gli umani sul groppone, di lavorare, di gareggiare e di vincere. Dipende da molti fattori, ma uno dei più decisivi è la destinazione finale del cavallo, quella dichiarata da ciascun proprietario sull'apposito libretto in suo possesso. Se il cavallo è dichiarato equide DPA, significa che è destinato alla produzione di alimenti per consumo umano, cioè è destinato al macello. In questo caso, il proprietario non può utilizzare molti dei farmaci in commercio per la specie equina, visto il potenziale utilizzo delle carni per il consumo umano. Se invece il cavallo è dichiarato equide non DPA, cioè non destinato alla produzione di alimenti per consumo umano, significa che quel cavallo è escluso a vita in modo irreversibile dalla possibilità di essere macellato, perché questa scelta è vincolante anche per i proprietari successivi. I proprietari di questi animali, però, non hanno l'obbligo di tenere un registro dei trattamenti farmacologici, quindi questi cavalli non destinati alla produzione alimentare, quindi di solito cavalli destinati allo sport, alla corsa, all'ippica, vengono trattati con una gamma di farmaci e di terapie molto vasta, senza particolari limitazioni. Vi abbiamo parlato di queste due categorie perché nelle scorse settimane la FISE, la Federazione Italiana degli Sport Equestri, ha modificato il suo regolamento e secondo l'associazione Italian Horse Protection, che è un po' il nostro faro in materia di cavalli, lo ha fatto in senso peggiorativo. Sentiamo l'intervista al presidente dell'associazione Italian Horse Protection, Sonny Richichi. Ranni pazzi. Non c'è nessuna necessità né urgenza di mettere mani a una normativa che già di per sé stava andando avanti in una maniera positiva e stava dando i suoi frutti. La verità se l'è lasciata sfuggire in una delle dichiarazioni che ha fatto lo stesso presidente Di Paola. La verità è una, ed è quella che noi diciamo da sempre e che riguarda non solo la FISE ma tutto il mondo dell'utilizzo del cavallo nell'ambito equestre, nell'ambito ludico, nell'ambito dell'ippica. Il cavallo di per sé è un animale che può essere molto longevo e che ha una buona metà della sua vita in cui non può essere impiegato in nessuna attività perché diventa anziano e poi addirittura molto anziano. Hanno una vecchiaia anche abbastanza lunga questi animali. Quindi chi decide di avere un cavallo solo esclusivamente per un suo utilizzo quando questo utilizzo viene a mancare, ha, tra virgolette, il grossissimo problema di dover gestire un animale che può essere anche molto dispendioso e non poterci fare nulla. Quindi il macello, che se ne dica anche negli stessi sport equestri, è sempre stata una valvola di sfogo comodissima per tutti quelli che appunto hanno usato un cavallo fin quando hanno potuto e poi devono sostituirlo con uno giovane perché quello non ce la fa più, o si è aggrottato o si è fatto male. Per una questione di interessi commerciali, pensando a chi, ed è questa la frase che è scappata di bocca al presidente Di Paola della FISE, pensando a chi è gestore di un maneggio che ha X cavalli che gli devono produrre lezioni, gli devono produrre introiti e a un certo punto ha un cavallo che si fa male, si addoppa, non è più in grado di essere utilizzato e diventa dal loro punto di vista una palla al piede. Se dovesse essere dichiarato sul passaporto come escluso dalla possibilità di macellazione, è un animale che deve essere mantenuto a vita come un animale d'affezione, cosa che nella mentalità di queste persone e della maggior parte almeno di queste persone è una totale follia, purtroppo. Auguri cavallo mio. La novità è questa, che adesso questa notizia fa sensazione, perché nel frattempo l'opinione pubblica comincia a prendere atto di quello che succede veramente nel mondo del cavallo. Fino a prima era come una vetrina guardata da fuori, da chi non era addetto ai lavori, e nessuno si poneva la domanda, vabbè, il cavallo nel momento in cui non può essere più utilizzato, che fine fa? No, adesso invece l'opinione pubblica sta prendendo coscienza di questo. Già questo ha portato negli anni scorsi, almeno secondo il nostro punto di vista, a un disinteresse progressivo verso le corse in ippodromo. In Italia la crisi dell'ittica è ormai cronica e dura tantissimi anni. Contiamo sul fatto che ci sia sempre meno interesse in generale verso gli sport equestri, che noi assolutamente non supportiamo in nessuna maniera, e che col passare del tempo chi decida d'ora in avanti di avvicinarsi a un cavallo o di avere un cavallo non lo faccia solo con l'idea di come usarlo, quanto usarlo e cosa farci, ma con l'idea appunto di conoscere e avere una relazione rispettosa con un animale che ha certamente tanti lati affascinanti e interessanti. Recognize and despise all the propaganda filtered down by the dead echelons, mainstream media. Hey, hey, hey, hey, you know me well, my love, I'd do anything for you. Society's hell, you need me just like I need you. That control every day of our lives. We can live as we wish, live as we wish, live as we wish. Hey, hey. You know me well, my love, I'd do anything for you. Society's hell, you need me just like I need you. Calamità, terremoti, alluvioni, nevicate, incendi. Per tutte queste situazioni fino a oggi la Protezione Civile si è attivata con l'obiettivo di salvare vite umane. Ma dal 23 gennaio 2018 non è più solo così. Grazie alle principali associazioni animaliste del paese, che sono EMPA, LAV, Lega Nazionale per la Difesa del Cane, OIPA ed altre, la Protezione Civile ha tra le sue finalità e tra le attività da organizzare e svolgere anche quella del soccorso e dell'assistenza agli animali colpiti da calamità naturali. Lo ha dichiarato la LAV in un comunicato. Nei momenti in cui si perde tutto, continua il comunicato della LAV, il valore affettivo e sociale degli animali della propria famiglia, come riconosciuto da tutti, è incalcolabile. La loro perdita smarrisce e annienta quel poco che resta. Anche per questo gli animali familiari sono insostituibili per la ricostruzione morale e materiale delle comunità. Chiamano Hua Hua e Zhong Zhong le prime due scimmie al mondo clonate con lo stesso metodo utilizzato per la pecora Dolly oltre 20 anni fa. I due macachi della specie Macaca fascicularis sono nati nell'Istituto di Neuroscienze del CAS a Shanghai e sono il frutto di anni di ricerca. La tecnica prevede di rimuovere il nucleo da un uovo sano e sostituirlo con un altro nucleo proveniente da un altro tipo di cellula somatica. Il clone diventa uguale alla creatura che ha donato il nucleo sostitutivo. Con questo lavoro è stata superata una barriera. Finora la tecnica era stata usata per clonare oltre 20 specie di animali diversi, compresi cani, maiali, gatti, ma la nascita delle due scimmie, che hanno adesso 6 e 8 settimane, pone domande di natura etica legate a quanto vicini siano arrivati gli scienziati a poter un giorno clonare gli esseri umani. In linea di principio, infatti, anche gli esseri umani potrebbero essere clonati con questa tecnica. L'hanno detto gli scienziati, precisando che, però, questo team specifico era concentrato sulla clonazione per fini medici. Un giorno lo stesso approccio potrebbe essere usato per creare popolazioni di scimmie geneticamente identiche, il che potrebbe essere utilizzato per ricerche medico-scientifiche, evitando di prendere delle scimmie che oggi sono libere in natura. Sono gli stessi scienziati che hanno effettuato questa clonazione a sostenere che nei soli Stati Uniti le compagnie farmaceutiche importano fra 30.000 e 40.000 scimmie all'anno. I background genetici di queste scimmie sono tutti variabili, non identici, quindi c'è bisogno di un numero molto alto di individui. Da un punto di vista etico, continuano ancora, pensiamo che avere clonato delle scimmie ridurrà in modo considerevole il numero di scimmie usate per fini farmaceutici. Solitamente le scimmie vengono usate per ricerche mediche su malattie del cervello, Parkinson, cancro, disturbi metabolici e problemi al sistema immunitario. Il procedimento con cui sono nati Hua Hua e Zhong Zhong, tuttavia, resta molto inefficiente e rischioso, perché i due piccoli sono gli unici nati di un gruppo di 79 embrioni clonati. I'm all out of hope. Where my bad dream could bring a fall. When you're far from home, don't call me on the phone and tell me you're alone. It's easy to deceive, it's easy to tease, but hard to get relief. Feel some visage, your eyes without a face. Feel some visage, your eyes. È stata approvata in Perù una legge che consentirà la costruzione di una rete autostradale in Amazzonia. Giudicata dal Congresso come opera prioritaria e di interesse nazionale, la costruzione di strade nelle zone di frontiere autorizzerà il disboscamento di una parte della foresta pluviale nella zona incontaminata di Purus, al confine con il Brasile, regione in cui vivono tribù indigene isolate che non sono mai entrate in contatto con la cosiddetta civiltà, ricchissima di specie animali e vegetali. La mozione, sostenuta dal partito di opposizione maggioranza Forza Popolare, è stata approvata con larghi voti, contrario al Ministero alla Cultura, che ha respinto il progetto, sottolineando il dovere fondamentale di proteggere le popolazioni indigene e definendo l'iniziativa una violenza nei loro confronti. Sul progetto si era espresso anche Papa Francesco, che aveva insistito affinché le autorità difendessero il polmone verde del pianeta. Vivo come un cammello in una grondaia, in questa illustre ed onorata società. E ancora sto aspettando un'ottima occasione per acquistare un paio d'ali e abbandonare il pianeta. Dodici cammelli sono stati squalificati da un concorso annuale di bellezza in Arabia Saudita per essere stati abbelliti con iniezioni di Botox nelle labbra. La notizia, rimpallata su diversi media online arabi e internazionali, arriva dall'annuale King Abdulaziz Camel Festival in corso a Riyadh. Gli animali sono stati espulsi per avere violato le rigide regole della competizione, che è particolarmente sentita nel paese. Oltre alle iniezioni di Botox, i proprietari hanno sottoposto gli animali ad altri trattamenti vietati dal regolamento, come rasature e tinte del mantello. D'altra parte, i premi in denaro per le competizioni di cammelli al festival, che dura 28 giorni, ammontano, pensate, a 57 milioni di dollari. Con tali cifre da capogiro in ballo, la pressione a imbrogliare può essere decisamente forte. Oggi vi voglio parlare del cantautore Christian Iannuzzi e del suo progetto The Jaggles. Cantautore vegano che da anni si propone con le sue canzoni per sensibilizzare sulla questione animalista, la scelta vegan e le scelte etiche. Il brano che vi propongo si chiama proprio Animal Song e è nel video che è postato sul nostro sito www.restiamoanimali.it. Potrete anche leggere la traduzione del testo, perché infatti The Jaggles cantano in inglese, il loro sound è molto American folk. Buon ascolto. Our world is covered up with countless stitches, all of which have the right to live. Our plan is only one, we're not an owners, but it belongs to every being. Bird in the sky, cut the warm wind with your wings, wander freely in the heaven before thou shalt slam you to the ground, and you die of human fire. Our world is covered up with countless beaches, all of which have right to live. Plan is only one, we're not the known as, but it belongs to every. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Those cows may feed the child, while an innocent couple die. to fatten a poison board and spoil the body on western guys. The coals blow the stain on our with countless speeches, hollow which our rights live. Our plan is only one, we're not known as, but it belongs to every bee. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Burning afar, branch you from mommy's care. You're closed, forced, caged, chained, tortured, poisoned, trashed, mortified, stuffed, and finally killed. You feel pain just like me. Your pain just like mine. Momento della nostra rubrica settimanale dedicata alla cucina cruelty free, il pasto gentile, curata dal tosco vegan chef Gabriele Palloni, autore del libro La cucina regionale italiana vegana, edizioni Newton Compton, che potete trovare in libreria o ordinare via internet. Sentiamo l'audio ricetta che ci propone questa settimana il nostro vegan chef. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Shaking hands, dopey morning dog, grumpy nose. Little wonder then, little wonder, you little wonder you. Big screen dolls, fits and explosions, sleepy time, that's all with you. Little wonder then, little wonder, you little wonder you. Sono animali che fortunatamente per nostra abitudine non finiranno mai in un piatto, almeno in questo paese. Anche se in un passato non troppo lontano non era così raro trovare qualcuno che avesse gustato la carne di cane o gatto. D'altro canto invece è comunemente accettato macellare maiali, manzi, polli, eccetera. Poi ci sono le specie che definirei di mezzo, il coniglio per esempio, specialmente da quando si è diffusa l'abitudine di considerare animali domestici. Ma l'animale di mezzo per eccellenza, a mio parere, è il cavallo. Molte persone, seppur onnivore, rabbrividiscono al pensiero di macelli equini. Altri invece ne consumano la carne perché hanno carenze di ferro. E ne farei anche a meno, ma come si fa? Ecco, allora una bella ricetta cruelty free con un alto contenuto di ferro, la cui assimilazione sarà facilitata dalla presenza di vitamina C, grazie al succo di limone, all'aglio e alla cipolla. Sono i burger di lenticchie verdi al cacao e mandorle. Gli ingredienti per 4 persone sono 200 g di lenticchie verdi essiccate, il succo di mezzo limone, 100 g di patate lessate e schiacciate, un cucchiaio di cacao amaro in polvere, un cucchiaio di mandorle tostate e tritate, uno spicchio di aglio, una cipolla rossa, 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva, sale e pepe e un po' di rosmarino. Sciacquate le lenticchie e lasciatele in ammollo in abbondante acqua almeno per 2 ore. Nel frattempo sbucciate la cipolla e affettatela. Fatela scottare in un tegame con mezzo bicchiere di acqua e quando questa sarà evaporata unite l'olio extravergine, il cacao amaro in polvere, il rosmarino e lo spicchio di aglio tritato e fate soffriggere per qualche minuto. Scolate bene le lenticchie e unitele al fondo di cipolla. Lasciatele rosolare per un minuto, quindi bagnate col succo di limone. Quando sarà evaporato, coprite con brodo vegetale o acqua e fate cuocere a fuoco lento aggiustando di sale e pepe. Quando le lenticchie saranno cotte, toglietele dal fuoco e lasciatele intiepidire. Poi macinate il tutto finemente, fino ad ottenere una crema che impasterete con le patate precedentemente lessate e schiacciate. Con le mani leggermente unte di olio o bagnate con acqua fredda, formate dei burger che sistemerete in una teglia con carta forno. Cospargete la superficie di ogni burger con della granella di mandorle tostate e fate cuocere a 180 gradi in forno ventilato per 25 minuti. Quindi spengete e lasciate raffreddare. Ricordiamo che nel nostro blog www.restiamoanimali.it potete trovare in audio, ma anche in forma di testo scritto, almeno 170 ricette cruelty free. Basta digitare nell'apposito campo di ricerca il titolo della rubrica Il pasto gentile. Some boys hate themselves, spend their lives resenting their fathers. Some girls hate the bodies, stand in the mirror and wait for the feedback, saying, God, make me famous. If you can, just make it painless. Just make it painless. Assisted suicide, she dreams about dying all the time. She told me she came so close, filled up the bathtub and put on our first record. Just make it painless. Just make it painless. Appuntamento alla prossima puntata, la nostra redazione al completo, composta da Roberta Marino, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Elisa Moretti, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco e da Camilla Lattanzi, che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 418 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, meno 30 minuti. Stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.